Isabella era nuovamente tutta sorrisi e buon umore, e anche James sembrava di nuovo felice. Oh, proprio un'idea fantastica! Ora, mia dolce Catherine, tutte le nostre pene sono finite. Tu ti sei disimpegnata nel modo più onorevole e noi faremo la gita più deliziosa del mondo. Oh, non è possibile, disse Catherine. Non posso accettare una cosa del genere. Devo raggiungere la signorina Tilney immediatamente e smentire quanto le è stato detto. Ma Isabella le prese una mano, Thorpe l'altra, e da tutti e tre piovvero infinite rimostranze. Perfino James era arrabbiato con lei. Ora che tutto era a posto e la stessa signorina Tilney aveva detto che per lei martedì andava benissimo, era assolutamente ridicolo, del tutto assurdo, opporre altre obiezioni. Non mi importa. Il signor Thorpe non aveva nessun diritto ad inventarsi un messaggio del genere. Se avessi ritenuto giusto rimandare, lo avrei detto io stessa alla signorina Tilney. Così significa solo farlo in modo più scortese e come posso sapere se il signor Thorpe potrebbe essersi sbagliato di nuovo? Mi ha già fatto compiere un atto di scortesia venerdì. Lasciatemi, signor Thorpe! Isabella, non trattenermi! Thorpe le disse che sarebbe stato inutile rincorrere i Tilney. Stavano girando l'angolo di Brook Street quando lui li aveva raggiunti e ormai erano sicuramente arrivati a casa. Bene, allora li seguirò fin là, disse Catherine. Dovunque siano, li seguirò. È inutile parlarne. Se non avete potuto convincermi a fare quello che ritenevo sbagliato, non ci riuscirete mai con l'inganno. E con queste parole si liberò con uno strattone e si allontanò in fretta. Thorpe avrebbe voluto rincorrerla, ma Morland glielo impedì. Lasciala andare se è questo che vuole. È ostinata come. Thorpe non terminò mai il paragone, poiché era impossibile trovarne uno adatto. E Catherine, sconvolta, si allontanò più in fretta che poteva, ostacolata dalla folla, timorosa di essere inseguita, ma decisa a non cedere. Mentre camminava, rifletteva su quanto era successo. Era penoso per lei deluderli e procurare loro un dispiacere, in particolare a suo fratello, ma non si pentiva del proprio rifiuto. A parte le sue preferenze, mancare una seconda volta al suo impegno con la signorina Tilney, ritirare una promessa fatta volontariamente solo 5 minuti prima e per giunta con un pretesto. Ah, oh, non poteva che essere sbagliato. Non si era opposta solo per motivi egoistici, non aveva agito solo per la propria soddisfazione. Questa gliel'avrebbe garantita, almeno in parte, anche la stessa gita, poiché avrebbe visitato Blaise Castle, no? Si era attenuta a quello che era giusto verso gli altri e all'opinione che si sarebbero fatti di lei. La sua convinzione di essere nel giusto, comunque, non era sufficiente a ridarle la tranquillità. Finché non avesse parlato con la signorina Tilney, non si sarebbe sentita a suo agio. Non appena riuscì a superare la folla del Crescent, allungò il passo e percorse quasi correndo il tratto rimanente finché raggiunse l'angolo di Milsom Street. Era stata così veloce che, nonostante il loro vantaggio su di lei, quando li vide, i Tilney stavano appena allora entrando in casa e, lasciando il servitore sulla porta ancora aperta, senza troppi complimenti, gli passò davanti dicendo che doveva parlare immediatamente con la signorina Tilney e si precipitò direttamente su per le scale. Quindi, aprendo la prima porta che le capitò, e che per fortuna era quella giusta, si ritrovò immediatamente nel soggiorno con il generale Tilney, il figlio e la figlia. La sua spiegazione, il cui solo difetto a causa dell'agitazione e del fiatone era di non essere affatto una spiegazione, fu immediata. Oh, sono venuta di corsa. È stato tutto un errore. Non ho mai promesso di andare. Ho detto loro dal principio che non potevo andare. Sono corsa via immediatamente per spiegarvi. Non mi importava ciò che avreste pensato di me. Non ho aspettato nemmeno il domestico. La faccenda, comunque, sebbene questo discorso non servisse a renderla chiarissima, smise presto di essere un mistero. Catherine scoprì che John Thorpe aveva effettivamente portato il falso messaggio e la signorina Tilney ammise sinceramente che era stata assai sorpresa. Ma se anche in questa circostanza il fratello si era dimostrato più pronto di lei a offendersi, Catherine, anche se istintivamente si rivolgeva all'uno come all'altra, non ebbe modo di saperlo. Quali che fossero stati i sentimenti degli altri prima del suo arrivo, la sua ansia di spiegarsi immediatamente rese ogni sguardo e ogni frase amichevoli quanto lei poteva desiderare. Sistemata quindi felicemente ogni cosa, la signorina Tilney la presentò al padre. che l'accolse con una cortesia così immediata e sollecita da richiamarle alla mente quello che Thorpe le aveva detto, tanto che pensò con piacere che evidentemente qualche volta ci si poteva fidare di lui. La gentilezza del generale giunse a un tale grado di affidabile premura che egli, senza rendersi conto della straordinaria rapidità con cui Catherine era entrata in casa, andò in collera con il domestico la cui negligenza l'aveva costretta ad aprire da sola la porta della stanza. Ma cosa era venuto in mente a William? Lui stesso avrebbe indagato sulla faccenda e se Catherine non ne avesse perorato la causa con il massimo calore, probabilmente William avrebbe perso per sempre il favore del suo padrone, se non il posto, per colpa della velocità di lei. Dopo essere rimasta con loro un quarto d'ora, si alzò per accomiatarsi. Ma il generale le procurò una piacevole sorpresa, chiedendole se voleva fare a sua figlia l'onore di rimanere per la cena e passare con lei il resto della serata. La signorina Tilney si unì al padre. Catherine ringraziò sentitamente, ma le era proprio impossibile. I signori Allen la aspettavano di ritorno da un momento all'altro. Il generale dichiarò che non poteva insistere, non si dovevano ignorare i diritti dei signori Allen, ma sperava che un giorno, magari avvertendo in anticipo, i signori Allen non avrebbero rifiutato di privarsi per un poco di lei in favore di sua figlia. Oh no, Catherine era certa che non avrebbero avuto nessuna obiezione e per lei sarebbe stato un grandissimo piacere accettare. Il generale l'accompagnò personalmente fino al portone, rivolgendole ogni tipo di galanterie mentre scendevano le scale, ammirando la grazia del suo passo, che corrispondeva esattamente allo spirito con cui danzava, e quando si separarono, la salutò con uno dei più eleganti inchini che Catherine avesse mai visto. Al settimo cielo, per quanto era capitato, Catherine se ne andò felice verso Pulteney Street. Camminando, rifletté tra sé, con molta grazia, cosa alla quale non aveva mai fatto caso prima. Tornò a casa senza incontrare nessuno del gruppo degli offesi e ora che aveva trionfato su tutta la linea, aveva fatto prevalere il proprio punto di vista e si era garantita la sua passeggiata, incominciò, man mano che si calmava, a chiedersi se veramente era del tutto dalla parte della ragione. Un sacrificio era sempre nobile. Forse se avesse ceduto alle loro richieste, le sarebbe stato risparmiato l'angoscioso pensiero di un'amica dispiaciuta, un fratello in collera e un programma di grande felicità per tutti, forse mandato a monte per causa sua. Per alleggerire l'animo e accertarsi di come potesse giudicare la sua condotta, qualcuno che si trovasse al di sopra delle parti colse l'occasione per menzionare davanti al signor Allen quella mezza idea di suo fratello e dei Thorpe riguardo alla gita del giorno dopo. Il signor Allen le chiese immediatamente: Ebbene, pensate di andare anche voi? No, avevo appena preso un impegno con la signorina Tilney per fare una passeggiata insieme quando me l'hanno detto e quindi, capite, non potevo andare con loro, no? Oh no, certo che no, e sono contento che voi non siate di quest'idea. Queste gite sono piuttosto sconvenienti. Giovanotti e ragazze che se ne vanno in carrozza per la campagna. Ogni tanto si può anche fare, ma andare insieme alle locande, in luoghi pubblici, oh, non è una cosa ben fatta. E mi meraviglio che la signora Thorpe lo permetta. Sono contento che voi non pensiate di andare. Sono certo che alla signora Morland non farebbe piacere. Signora Allen, non pensate come me? Non pensate che questi progetti siano piuttosto riprovevoli? Sì, certo, senza alcun dubbio. Le carrozze aperte sono aggeggi impossibili. Un vestito pulito non dura più di 5 minuti. Ci si inzacchera salendo e scendendo e il vento manda i cappelli e il cappellino da tutte le parti. Oh, io detesto le carrozze aperte. Questo lo so, ma il punto non è questo. Non pensate che si abbia una strana impressione vedendo delle signorine che si accompagnano spesso ai giovanotti con i quali non hanno nemmeno un legame di parentela? Oh, sì, mio caro, dà proprio una strana impressione. Vederle è una cosa che non sopporto. Oh, cara signora, esclamò Catherine, ma allora perché non me l'avete detto prima? Certo, se avessi saputo che era sconveniente, non sarei andata affatto con il signor Thorpe, ma ho sempre pensato che voi me lo avreste detto se facevo qualcosa di sbagliato. ed è così, mia cara, puoi esserne certa, poiché, come ho detto alla signora Morland quando siamo partiti, farò sempre tutto quello che posso fare per te. Ma non si deve essere seccanti. I giovani sono giovani, come dice anche tua madre. Sai che quando arrivammo non volevo che comprassi quella mussolina fantasia, ma tu hai voluto farlo. Ai giovani non piace essere sempre contraddetti. Oh, ma questa era una cosa importante e non credo vi sarebbe stato difficile convincermi. Boh, finora non è successo niente di male, disse il signor Allen. Io ti consiglio semplicemente, mia cara, di non uscire più con il signor Thorpe. Oh, è proprio quello che stavo per dire. Catherine, sollevata da queste ultime parole, pensò a Isabella e dopo un attimo di riflessione chiese al signor Allen se non sarebbe stata una cosa giusta e gentile scrivere alla signorina Thorpe e spiegarle che quella gita sarebbe stata sconveniente, dato che certamente neppure lei se ne rendeva conto e forse sarebbe andata a Clifton l'indomani, nonostante quanto era successo. Ma il signor Allen la dissuase. Oh. Sarà bene che voi la lasciate decidere da sola, mia cara. È abbastanza grande per sapere quello che fa. E se non lo sa, ha una madre che può dirglielo. Senza dubbio la signora Thorpe è troppo indulgente, ma comunque voi farete meglio non interferire. Lei e vostro fratello hanno deciso di andare e a voi ne verrebbe soltanto del rancore da parte loro. Catherine fece come le dicevano. E benché le dispiacesse pensare che Isabella stava per fare qualcosa di sbagliato, si sentì molto sollevata per l'approvazione che il signor Allen aveva accordato al suo modo di comportarsi e sinceramente felice che i suoi consigli avessero scongiurato per lei il pericolo di cadere nello stesso errore. Essere riuscita a evitare di partecipare alla gita a Clifton era ora veramente una fortuna. Infatti, cosa avrebbero pensato di lei i Tilney se avesse mancato la sua promessa per fare una cosa che già di per sé era sbagliata? Se lei si fosse resa colpevole di un atto sconveniente solo per poterne compiere un altro. Capitolo 14. Il giorno dopo il tempo era bello e Catherine quasi si aspettava un altro attacco del gruppo al completo. Certo, con il signor Allen dalla sua parte non aveva niente da temere, ma sarebbe stata felice che le venisse risparmiata un'altra battaglia, considerando com'era dolorosa la vittoria, e fu quindi sinceramente contenta quando non si fecero vedere né sentire. I Tilly vennero a prenderla all'ora fissata e poiché non nacque nessuna nuova difficoltà, nessuna reminiscenza improvvisa, nessun invito inaspettato, nessuna intrusione impertinente che mandasse all'aria i loro piani, la mia eroina, per quanto incredibile possa apparire, riuscì a tenere fede al suo impegno. Anche se si trattava di un appuntamento con l'eroe. Decisero di fare il giro di Beeching Cliff, quella nobile collina che il verde splendido e i boschi dai quali è ricoperta rendono oggetto di meraviglia per chiunque la osservi da Bath. Quando la guardo, disse Catherine mentre camminavano lungo il fiume, non posso fare a meno di pensare al sud della Francia. Oh, siete stata all'estero allora? Disse Harry un po' sorpreso. Oh no, alludo solo a quello che ho letto. Mi fa sempre venire in mente la campagna che Emily e il padre attraversarono nei misteri di Udolpho. Oh, ma forse voi non leggete romanzi. E perché non dovrei? Oh, perché sono troppo sciocchi per voi. Gli uomini leggono libri migliori. La persona, uomo o donna, alla quale non piace un buon romanzo non può che essere incredibilmente stupida. Ho letto quasi tutte le opere di Anne Radcliffe. E la maggior parte mi è piaciuta molto. Una volta cominciato i misteri di Udolpho non sono più riuscito a lasciarlo. Ricordo che l'ho finito in 2 giorni e per tutto il tempo ho avuto i capelli dritti in testa. Sì, aggiunse la signorina Tilney. Ricordo che avevi promesso di leggermelo ad alta voce e quando mi chiamarono 5 minuti per rispondere a un biglietto, tu, invece di aspettarmi, ti portasti il libro alla passeggiata dell'Hermitage e io dovetti pazientare fino a che non lo finisti. Oh, grazie, Eleanor, una testimonianza estremamente probante. Vedete, signorina Morland, quanto fossero ingiusti i vostri sospetti? Ecco che, nell'ansia di andare avanti, rifiuto di aspettare mia sorella per soli 5 minuti. Rompo la promessa che le avevo fatto di leggerglielo ad alta voce e la lascio in sospeso nel punto più interessante, scappando con il libro che, notate bene, era suo, proprio suo. Se ci penso ne sono orgoglioso e credo che questo debba guadagnarmi il vostro favore. Oh, sono veramente molto felice di sentirvi parlare così e ora non mi vergognerò più del fatto che mi piace Udolfo. Ma davvero avevo sempre pensato che voi uomini disprezzaste incredibilmente i romanzi. Incredibilmente? È così. Se li disprezzano, il fatto deve davvero suscitare incredulità, dato che ne leggono quanti ne leggono le donne. Io stesso ne ho letti centinaia e centinaia. Non pensate di poter competere con me nella conoscenza di Julie e di Louise? E se continuassimo di questo passo, finendo in quell'interminabile conversazione che comincia con «Avete letto questo?» e «Avete letto quello?» Vi lascerei presto indietro. Quanto, come posso dire? Mi serve un paragone appropriato. Quanto la vostra amica Emily lasciò il povero Valancourt quando se ne andò in Italia con la zia. Pensate. Ah, a quanti anni di vantaggio ho su di voi? Incominciavo i miei studi a Oxford mentre voi eravate ancora una bambina che a casa ricopiava i suoi primi ricami. Non sono molto brava, temo, ma seriamente non pensate anche voi che Udolfo sia il più bel libro del mondo? Il più bello, immagino intendiate il più elegante. Deve dipendere dalla rilegatura. Harry, disse la signorina Tilney, sei molto impertinente. Signorina Morland, vi sta trattando esattamente come tratta sua sorella. È sempre pronto ad accusarmi di qualche improprietà di linguaggio e ora si sta prendendo con voi la stessa libertà. Il termine il più bello, come voi l'avete usato, non lo soddisfa e sarà bene che lo sostituiate il più presto possibile, altrimenti ci tormenterà con le definizioni del dizionario di Johnson e del libro di retorica di Blair per tutto il resto della strada. Certamente, esclamò Catherine. Non intendevo dire niente di sbagliato, ma è effettivamente un bel libro e perché non dovrei definirlo così? Verissimo, disse Harry. E questa è una bellissima giornata e noi stiamo facendo una bellissima passeggiata e voi siete due bellissime signorine. Oh, è proprio un bellissimo mondo. Va bene per tutto. In origine forse veniva usato soltanto per definire quello che era elegante, appropriato, delicato o raffinato. Erano belli i vestiti della gente, i loro sentimenti o le loro scelte. Ma ora ogni commento su qualsiasi argomento viene espresso con quell'unica parola. E infatti, esclamò la sorella, dovrebbe essere applicato solo a te, senza bisogno di nessun altro commento. Sei più bello che saggio. Venite, signorina Morland, lasciamola meditare sulle nostre improprietà di linguaggio e parliamo tra noi di Udolfo con le lodi e i termini che preferiamo. È un'opera interessantissima. Vi piace quel genere di letture? E, a dire la verità, non mi piace quasi nient'altro. Addirittura, voglio dire, posso anche leggere poesie, teatro e cose del genere, e non mi dispiacciono i libri di viaggio. L'unica cosa che non riesce a interessarmi è la storia vera, solenne. E voi? Oh, a me sì, a me la storia piace moltissimo. Vorrei che piacesse anche a me. Ne leggo un po' per dovere, ma non ci trovo niente che non mi annoi o non mi stanchi. In ogni pagina, papi e re che litigano, guerre e pestilenze, gli uomini sono tutti buoni a nulla, e di donne non si parla, o quasi. È molto noiosa, perché buona parte deve essere invenzione. I discorsi che vengono attribuiti agli eroi, i loro pensieri e piani, la maggior parte di tutto ciò deve essere frutto dell'invenzione. E l'invenzione è quello che mi piace di più negli altri libri. Pensate dunque che gli storici, disse la signorina Tilney, non siano molto portati ai voli della fantasia? Dispiegano l'immaginazione senza riuscire a risvegliare l'interesse. A me piace la storia e sono più che soddisfatta di accettare il falso insieme al vero. Gli storici possono apprendere i fatti principali da fonti come gli antichi trattati di storia e i documenti di cui ci si può fidare, penso, quanto ci si può fidare di tutto quello che non succede proprio sotto i nostri occhi. E per quel che riguarda i piccoli abbellimenti di cui voi parlate, sono appunto abbellimenti e li accetto come tali.